Allora, io faccio parte di quelle generazioni che improvvisamente, finito di soffrire per la scuola, per tutte le ossessioni, vessazioni, obblighi, compiti, interrogazioni trappola, giornate punitive, dopo tutte quelle coercizioni da galera, da trincea, ecco che è passato finalmente il mal di testa fisso, quello tutti i giorni. Per tutti gli anni della scuola. Ecco che. Ma neanche poi il tempo di domandarsi chi, cosa essere e fare nella vita, visto che fino alla maturità mica te l'hanno insegnato, no? Neanche affrontato il discorso. Ecco dunque che. Pronti a smarrirci nella scelta di cosa fare da grandi per guadagnare. Ecco. Pensando anche magari un pochino ad essere felici, no? Un pochino gratificati da quello che faremo. Sì, anche se tanto alla maggior parte dei genitori sembra non interessare minimamente. No, no, a mia madre sì, per fortuna. Ecco che quindi, e invece, venivamo chiamati da una cartolina fredda e anonima, obbligati a presentarci alla tal caserma, il tal giorno, alla tal ora. E buonanotte. Una doccia gelata. Sì, l'ennesimo schiaffo della vita che non ti chiama a fare qualcosa di difficile, ma con un senso, una sana evoluzione. Spesso ti prende a calci per il puro gusto di farlo, o per il puro gusto di chi lo fa, che ti dice d'andare ad imparare a difendere la patria, che poi tutti lo sanno che stare un anno là dentro è buttare via il tempo, no? E la vita, più per la disperazione che per la patria, che secondo me poi tutto ciò è la patria, ma mica te lo chiede, mica se ne parlava allora di tutti i suicidi là dentro. Bastava essere diverso, avere, che ne so, un pizzico di sensibilità in più, ma anche semplicemente una sensibilità ancora non del tutto sopita. Chissà che fine facevi là dentro, in mezzo al sudore, alle coperte ben piegate, alle punizioni immotivate. No, no. Motivatissime. Certo, se paragonate alla rupe di Sparta, che poi io ero già consapevole della mia omosessualità. E come? Sì, perché a volte sembra che ci si nasca. Sembra che non ci si ammali solo a una certa età. Mi era pure capitato solo una volta, io neanche avevo capito se mi era piaciuto. Che avessi concesso, come dire, non proprio il fianco e basta, ecco, all'eccitazione di un coetaneo. O io dopo la famosa cartolina non dormivo più. E se si vede? E se ne accorgono durante la visita militare? Io ero terrorizzato da quest'idea fissa che potessero scoprire che ero stato penetrato una volta. Poi magari mettevo pure a rischio il mio amico, perché chissà con quali portentosi strumenti della metropoli, secondo me, potevano addirittura risalire a lui. No, ero ingenuo, provinciale. Sì, però io immaginavo già l'intera caserma, no? I dottori, anche i portieri. Ad additarmi, a ridere di me, a cacciarmi via fra gli spintoni e gli insulti. Vai, abuso! La sera, la notte, no? Prima del fatidico giorno, io ricordo che pregai con una certa insistenza. Il mio Dio personale, che ora mi vergogno un po' a dirlo, ma. Oh, io pregavo Renato Zero. E affinché soffiasse un po' della sua grinta, del suo coraggio nella mia vita, no? La grinta che non hai, quella. Che quella affinché spaventasse, mi vendesse il suo cielo, mi disse: due ali, sai, per scappar via poi il giorno dopo dall'imminente catastrofe in caserma. No, però, ringraziando Dio, ai futuri mariti dell'arma mica veniva richiesto di dimostrare di essere illibati, ma nemmeno dichiarare d'essere froci, eh? Per l'amor di Dio, mai vi venga in mente, mai dichiarare d'essere froci, mai. E così io, ragazzino di provincia, mai allontanato dall'utero materno caldo, compassionevole, mi sveglio presto, mamma mi prepara la colazione e via a prendere il treno, ma con un cuore in gola, un magone. Io ero terrorizzato da quest'idea fissa, ma poi sempre più dilatata, tanto da prendere il posto dell'intero cervello, di sbagliare direzione, no? Di non capire le indicazioni, sì, magari arrivo tardi, è così. Arriverò tardi e sarò additato come il ragazzino deflorato che arriva pure tardi e arrossisce sotto le sghignazzate dei compagni. Finocchio! E se io mi guardo indietro adesso, vedo che allora non c'ero io. No, c'era solo questa enorme paura che ingigantiva tutto. Io laggiù vedo questi due enormi occhioni, no? Spaventati, terrorizzati, atterriti, ma che sorridono a tutto, anche alle battute di merda, tutte le uscite più basse, volgari, discriminatorie, in cerca di una forma di complicità, no? Un contatto. Ho tutti la stessa età. N'avessi conosciuto uno di quelli che partivano dalla mia provincia. Uno. Ma che cazzo erano questi? E poi perché nessuno sembrava essere spaventato come me? Che poi, talmente spaventato, che non ricordo neanche un maschio vagamente sexy. Carino, to, in quel convoglio, non è da me, eh? Ma no, io uno che mi garba lo trovo sempre. Uno, il meno peggio. E così, alla fine sono arrivato in questi enormi stanzoni, dove mandre di pecore puzzolenti venivano messe in fila. E poi, chiamate all'improvviso, erano tenute a sentire il proprio nome subito, subito. Nonostante il casino, nonostante questa cazzo di testa continuasse a chiedersi: ma io che ci faccio qui? Mi ricordo gente con le orecchie sporche, con la puzza di sudore stagnante nei vestiti, con gli occhi vuoti. Tipici, no? Di chi non ha niente di meglio che la goliardia. Sì, poi magari però si fermerà lì dentro chissà quanto tempo. Firmerà qualunque cosa pur di guadagnare e obbedirà a tutti gli ordini più strafottenti e arroganti dei frustrati che sono venuti prima. Poi, per salvare la patria. Io mica lo capivo perché per salvarla dovessi essere trattato in quel modo. Oh, mi ricordo ragazzi rovesciati a testa in giù per le scale. Fingevano di essere pazzi. Io invece lì, codardo, che faccio file, che chiedo scusa, che sorrido, che saluto facce grigie che ovviamente non salutano me, che non sorridono, non si scusano, figurati, no, ma smistano, spingono, soppesano, palpano e poi affondano quel cazzo di marchio a fuoco nella carne. Esonerato! Perché? Perché esonerato? Ah, avranno capito dai sorrisi, eh? Dai saluti, eh? Dalle scuse. Hanno capito dalle scuse che sono frocio. Ora fanno finta di niente, ma sono tutti lì fuori pronti a deridermi. Perché esonerato? Eh? Che cazzo c'ho meno degli altri? Che mi manca a me per fare poi questa stronzata di ronde notturne interminabili, immobili, di marce infinite sotto la pioggia, pontili da lavare sotto il sole, eccessi da scorticare nell'ombra. Eh? Cos'ho che non va? Eh? Cos'ho che non va per uscire, che ne so, la domenica? La domenica è libera uscita, come tutti. Magari in un paesino sperduto, dimenticato da Dio, in qualche sprofondo di questa nostra patria che non rispetta le minoranze, che non conosce il volere di maggioranze pilotate e vigliacche. La patria come la mamma. No. No, no, no, no, mi spiace. Mi spiace perché io sono stato un bambino fortunato. E la mamma mi ha dato amore, mi ha dato rispetto, mi ha dato attenzioni, mi ha dato insegnamenti. Siamo cresciuti insieme con la mamma, con la patria. Con la patria che cazzo c'ho da spartire? Anzi, ogni volta che provo sulla mia pelle un'ingiustizia, io soffro anche dell'infinita impotenza di sapere che non riceverò aiuto dalla patria. Sì, dai compatrioti. Magari scherno, no? Indifferenza, derisione. No, peggio, punizione. È punizione per non aver taciuto davvero uomo. Perché non sei un uomo, eh? Non sei un uomo se segnali un'ingiustizia o se chiedi aiuto. Non sei un uomo. Devi scopare più fregne che puoi e devi essere malmenato o malmenare per difendere l'onore. Magari farti ammazzare per una patria inventata tanto tempo fa e poi tirata fuori per le occasioni speciali, no? Quelle importanti. Come il calcio. E la guerra. Che poi la guerra è quella dei ricchi, no? Quella per togliere ai più poveri quel poco che c'hanno, così che diventino sempre più poveri e loro armati fino ai denti sempre più ricchi. Poi noi, per amore di patria, giù, vai, sotto le bombe! Che... Se io ripenso alla visita militare, no? Un amico mi dette un consiglio. Mi disse, oh, mi raccomando, non ti venga in mente di scrivere sul questionario che ti piacciono i fiori. Perché? Perché? È perché sennò capiscono ai volo che tu sei omosessuale. Beh, allora voi non credo vi possiate immaginare lo sforzo. Io amo i fiori. Sì, ma come me anche un sacco di miei amici etero amano i fiori. Magari anche un sacco di quei vigliacchi che in caserma rinchiudono il nuovo arrivato nell'armadietto. E poi quel poveraccio deve pure cantare come fosse un jukebox se loro gli lanciano dentro una monetina. Allora a me vengono in mente i campi di concentramento che ho visto in Polonia. Stanze in cui venivano rinchiusi in quattro, in piedi, uno addosso all'altro, senza aria, senza spazio, ma celle di nemmeno un metro quadro, non c'era neanche la possibilità di potersi accasciare. Così lì si perdevano i sensi, no? E la vita. Addosso agli altri, in piedi, così la morte la tocchi da vicino, vai! Bello! Bello, no? Anche loro amavano i fiori? Che cazzo di mondo è? Un mondo di uomini forti, coraggiosi, sprezzanti del pericolo, e che poi sputano sui fiori. No, peggio, costruiscono interi lager. Appositamente unicamente per i fiori. Certo. Certo, perché abbelliscono il mondo, perché sbocciano liberi. Afghanistan, pena di morte. Algeria, reclusione fino a 3 anni. Antigua, reclusione fino a 15 anni. Arabia Saudita, pena di morte. Cuba, reclusione da 3 mesi a 1 anno per la manifestazione pubblica dell'omosessualità. Egitto, reclusione o lavori forzati fino a 3 anni, da 5 a 25 anni in Ghana, ma ci sono testimonianze di torture, pena di morte. Reclusione a vita, reclusione fino a 2 anni, in Somalia 100 frustate, pena di morte, reclusione fino a 2 anni, ma sono solo alcuni dei paesi in cui l'omosessualità ancora viene punita per legge. Ma in Italia mica siamo messi tanto meglio. In Italia oggi a un militare che si dichiara gay può essere ritirata la patente. E poi gli viene restituita per 1 anno, o di anno in anno, per 7 anni. 7 anni di esami, di colloqui, di umiliazioni, di vergogna, 7 anni. Ah, poi gli viene restituita la patente, gli viene riconosciuto che ha ragione. Ha tenuto duro 7 anni. Chissà quanti non ce l'avranno fatta, non avranno avuto la forza, il coraggio di andare avanti, quanti avranno desistito, non avranno avuto il fegato di portare avanti una battaglia, quante cazzo di vittime avranno fatto questi uomini veri? Quelli forti, no? Quelli coraggiosi, quelli sprezzanti del pericolo, quelli che non amano i fiori.